Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. La signora di Morcerf entrò con il suo accompagnatore nella serra ricolma di magnifici frutti, che al principio di luglio giungono a maturazione grazie ad una temperatura sempre regolata per supplire al calore del sole, spesso mancante da noi. La contessa lasciò il braccio di Montecristo e andò a cogliere un grappolo di uva moscatella. «Prendete, signor Conte», disse con un sorriso così triste che si sarebbero potute vedere le lacrime che le spuntavano negli occhi. «Prendete. La nostra uva di Francia non è paragonabile, lo so, alle vostre di Sicilia e di Cipro, ma sarete indulgente con il nostro debole sole del nord». Il conte si inchinò e fece un passo indietro. «La rifiutate?» disse Mercedes con voce tremante. «Signora», rispose Montecristo, «vi prego umilmente di scusarmi, ma non mangio mai uva moscatella». Mercedes lasciò cadere il grappolo sospirando. Un lungo silenzio seguì quella scena. «Signor Conte», riprese infine Mercedes guardando Montecristo con occhi supplichevoli, «c'è un commovente costume arabo secondo il quale diventano amici per sempre coloro i quali condividono il pane e il sale sotto il medesimo tetto». «Lo conosco, signora, ma noi siamo in Francia e non in Arabia. E in Francia non ci sono amicizie eterne, come pure non c'è condivisione di pane e di sale». «Ma infine», disse la contessa palpitante con gli occhi fissi in quelli di Montecristo, «noi siamo amici, non è vero?» «Certamente che siamo amici, signora», replicò il conte. «E d'altra parte, perché non dovremmo esserlo?» Questo tono era talmente diverso da quello desiderato dalla signora di Morcerf che ella si volse per emettere un sospiro che rassomigliava ad un gemito. «Grazie», disse, e riprese a camminare. «Signore», riprese ancora la contessa dopo 10 minuti di silenziosa passeggiata, «è vero che avete visto tanto, tanto viaggiato e tanto sofferto». «Ho sofferto moltissimo, sì, signora», rispose Montecristo. «Ma ora siete felice?» «Senza dubbio. Nessuno può dire che io mi lamenti». «E la vostra felicità presente vi addolcisce l'anima?» «La mia felicità presente eguaglia la mia passata miseria», disse il conte. «Non siete sposato?» domandò la contessa. «Io? Sposato?» rispose Montecristo trasalendo. «Chi ha potuto dirvi una cosa simile?» «Nessuno. Ma più di una volta siete stato visto all'opera con una bella e giovane donna». «È una schiava che comprai a Costantinopoli, signore. La figlia di un principe, che tengo con me come una figlia non avendo altri affetti in questo mondo». «Vivete dunque solo?» «Vivo solo». «Non avete sorelle, figli, padre?» «Non ho nessuno». «Come potete vivere così, senza che nulla vi leghi alla vita?» «Non è colpa mia, signore. A Malta amavo una donna e stavo per sposarla, quando sopraggiunse la guerra che mi portò lontano da lei, come un turbine. Credevo che lei mi amasse abbastanza per aspettarmi, per restarmi fedele sino alla tomba. Ma quando ritornai, era sposata. Questa è la storia di tutti gli uomini che hanno superato i 20 anni. Avevo forse il cuore più debole degli altri e ho sofferto più di quello che altri avrebbero sofferto al mio posto». La contessa si fermò un momento, come se avesse avuto bisogno di fermarsi per respirare. «Sì», disse, «e quest'amore vi è rimasto nel cuore. Non si ama che una sola volta. E avete mai più rivisto quella donna?» «Mai». «E le avete perdonato ciò che vi fece soffrire?» «A lei?» «Sì». «Ma a lei soltanto? Odiate sempre quelli che vi hanno separato da lei?» «Io? No. Perché dovrei odiarli?» La contessa si pose di fronte a Montecristo. Teneva ancora in mano una parte del grappolo d'uva profumata. «Prendete», gli disse. «Non mangio mai uva, signora», rispose Montecristo come se lo dicesse per la prima volta. La contessa gettò il grappolo nel cespuglio più vicino con un gesto indispettito. Albert accorreva in quel momento. Madre mia! Madre mia, una grande disgrazia! Il signor di Villefort è qui! Ebbene? Domandò la contessa scuotendosi, come se dopo il sogno fosse sopraggiunta la realtà. Viene a cercare sua moglie e sua figlia, perché la marchesa di Saint-Méran è giunta a Parigi portando la notizia che il signore di Saint-Méran è morto nel lasciare Marsiglia! Villefort era tanto pallido quando apparve sulla soglia della sala che Valentin gli corse incontro gridando. Oh, padre mio, è accaduta qualche disgrazia! Vostra nonna è arrivata, disse Villefort. E mio nonno? Interruppe la ragazza tremante. Il signor di Villefort non rispose, se non offrendo il braccio a sua figlia. Era tempo. Valentin, presa da vertigini, vacillò. La signora di Villefort si affrettò a sostenerla e aiutò suo marito a trascinarla verso la carrozza, dicendo: tutto ciò è strano. Chi avrebbe potuto immaginarlo? Oh sì, che strano caso! E quella famiglia desolata se ne fuggiva così, gettando la tristezza come un velo nero su quella che avrebbe dovuto essere una festa. Dalla sera precedente, Morrel non viveva più. Non era una semplice inquietudine quello che lo conduceva così sconvolto e tremante al cancello degli ipocastani. Quando Valentin comparve, Morrel la chiamò e lei corse al cancello. «Voi, a quest'ora?» disse. «Sì, povera Valentin», rispose Morrel. «Vengo a ricevere e a portare cattive notizie. È dunque la casa della sventura, questa?» disse Valentin. Parlate, Maximilien, anche se la lista dei miei dolori è già sufficiente. Cara Valentin, disse Morrel cercando di controllare la propria emozione per parlare pacatamente, ascoltatemi bene, vi prego, perché tutto ciò che sto per dirvi è importante. Quando contano di maritarvi? Ascoltate, disse Valentin, non voglio nascondervi nulla, Maximilien. Questa mattina hanno parlato del mio matrimonio. E mia nonna, sulla quale contavo come su un sicuro appoggio, non solo si è dichiarata favorevole, ma lo desidera a tal punto che è solo la lontananza del signor Franz a ritardarlo e l'indomani del suo arrivo il contratto sarà firmato. Un penoso sospiro uscì dal petto del giovane, che guardò a lungo e tristemente la fanciulla e mormorò. È doloroso sentir dire tranquillamente dalla donna che si ama: il momento del vostro supplizio è fissato, fra poche ore avrà luogo. Ma non importa, bisogna che sia così, e da parte mia non opporrò ostacoli. Ebbene, poiché non si aspetta che l'arrivo del signor d'Épinay per firmare il contratto, e voi sarete sua l'indomani del suo arrivo, ebbene, domani voi apparterrete a lui, perché egli è giunto a Parigi questa mattina. Valentin mandò un grido. E ora, Valentin, vediamo, rispondetemi come a un uomo per il quale la vita o la morte dipende dalla vostra risposta, che cosa contate di fare? Valentina abbassò la testa. Era annientata. Ascoltate, disse Morrel. Non è la prima volta che voi pensate alla nostra situazione. Ora è grave, è pressante, è estrema. Non credo sia il momento di abbandonarsi ad uno sterile dolore, buono per quelli che vogliono soffrire. Avete la volontà di lottare contro l'avversa sorte, Valentin? Dite, sono venuto apposta per questo. Valentin fremette e guardò Morrel con occhi spaventati. L'idea di resistere a suo padre, a sua nonna e a tutta la sua famiglia non l'aveva nemmeno sfiorata. Che mi dite, Maximilien? Lottare io? Dio me ne salvi! No, no! Serbo tutta la mia forza per lottare contro me stessa. Quanto ad affliggere mio padre, quanto a turbare gli ultimi momenti di mia nonna, no, no, mai! Avete ragione, disse freddamente Morrel. Mio Dio, in che modo me lo dite? Gridò Valentino offesa. È perché vi ammiro, signorina. Signorina! Gridò Valentin. Signorina! Oh, l'egoista! Mi vede alla disperazione e finge di non capirmi! Vi ingannate. Vi capisco perfettamente, anzi. Non volete contrariare il signor di Villefort. Non volete disubbidire alla marchesa. E domani firmerete il contratto che deve unirvi al vostro sposo. Ho l'onore di dirvi addio, signorina. E chiamando a testimone Dio che sente e legge le mie parole in fondo al cuore, vi auguro una vita molto serena, felice e piena di soddisfazioni, senza posto per i ricordi. Addio, Valentin. Addio. Prima di lasciarmi, ditemi ciò che volete fare, Maximilien. Il giovane sorrise con tristezza. Oh, parlate, parlate, disse Valentin. Ve ne prego. Ascoltatemi, mia adorata Valentin, disse Maximilien con voce grave e melodiosa. Le persone come noi, che non hanno mai avuto un pensiero di cui arrossire davanti al mondo, possono leggere apertamente nel cuore l'uno dell'altro. Io non ho mai fatto il romantico, non sono un eroe malinconico, ma senza parole, senza proteste, senza giuramenti, ho messo la mia vita nelle vostre mani. Voi mi venite meno, e avete ragione di agire così, ve l'ho detto, ve lo ripeto, ma infine voi mi mancate, e la mia vita è finita. Dal momento che vi allontanate da me, Valentin, io resto solo al mondo. Mia sorella è felice con suo marito. Suo marito non è che mio cognato, cioè un uomo che soltanto le convenzioni sociali legano a me. Nessuno dunque sulla terra ha bisogno della mia esistenza divenuta inutile. Ecco ciò che farò. Aspetterò fino all'ultimo che voi siate maritata. E quando la mia infelicità sarà certa, senza rimedio, senza speranze, scriverò una lettera a mio cognato, un'altra lettera al prefetto di polizia, per avvertirli del mio progetto. E nell'oscurità di qualche bosco, sulla riva di qualche fosso, sulla sponda di qualche fiume, mi farò saltare le cervella. Quant'è vero che sono il figlio dell'uomo più onesto che abbia mai vissuto in Francia. Un tremito convulso agitò le membra di Valentin, lasciò il cancello che teneva con entrambe le mani. Le braccia ricaddero lungo i fianchi e due grosse lacrime le rigarono le guance. Il giovane rimase davanti a lei, tetro e risoluto. «Oh, per pietà!» disse lei. «Vivrete, non è vero?» «No!» Sul mio onore, disse Maximilien. Ma che importa a voi? Avrete fatto il vostro dovere e vi rimarrà la vostra coscienza. Valentin cadde in ginocchio, comprimendosi il cuore che pareva volesse scoppiarle. Addio, Valentin, replicò Morrel. Mio Dio! Esclamò Valentin, alzando le mani al cielo in una sublime espressione. Voi lo vedete! Ho fatto tutto ciò che ho potuto per restare una figlia sottomessa. Ho pregato, supplicato, implorato. Egli non ha ascoltato le mie preghiere, né le mie suppliche, né il mio pianto. Ebbene, continuò asciugandosi le lacrime e riprendendo la sua fermezza. Ebbene, non voglio morire di rimorsi. Preferisco piuttosto morire di vergogna. Vivrete, Maximilien, e io non sarò di nessuna fuorché vostra. A quale ora? In quale momento? Subito! Parlate, ordinate! Sono pronta! Morrel, che aveva già fatto qualche passo per allontanarsi, era di nuovo tornato pallido di gioia, con il cuore commosso, tendendo attraverso il cancello le sue mani a quelle di Valentin. Valentin, disse, voi dovete giurarmi che questo odioso matrimonio non si farà mai, e che quand'anche vi trascinassero davanti al magistrato o davanti al prete, voi direte sempre di no. Te lo giuro, Maximilien, per tutto ciò che ho di più sacro al mondo, per mia madre. Mi affido a voi, Valentin, disse Morrel. Tutto ciò che farete sarà ben fatto. Soltanto, se non ascoltano le vostre preghiere, se vostro padre, se la signora di Saint-Mérin esigessero che il signor d'Épinay fosse chiamato domani a firmare il contratto, allora avete la mia parola, Morrel. Invece di firmare, vengo a raggiungervi e fuggiremo. Ma come saprò? Vi scriverò, non dubitate. Mio Dio, Maximilien, questo matrimonio è odioso per me quanto per voi. Bene, bene. Grazie, adorata Valentin, esclamò Morrel. Allora tutto è stabilito. Una volta che io conoscerò l'ora, accorrerò qui e vi condurrò da mia sorella. Là, nascosti, avremo la coscienza della nostra forza e della nostra volontà, e non ci lasceremo sgozzare come l'agnello che non oppone resistenza con i suoi belati. Sia così, disse Valentin. Io pure vi dirò, tutto ciò che farete sarà ben fatto. Siete contento? Mia adorata Valentin, è ben poco dire di sì. Valentin aveva avvicinato le labbra al cancello e le sue parole giungevano come un soffio profumato fino alle labbra di Morrel. Morrel consultò il proprio orologio. Era già mezz'ora più tardi dell'ora fissata da Valentin. Era impossibile poter pazientare più a lungo. Andò da lei. Le tempie di Maximilien battevano con forza. La vista gli si oscurò. Scavalcò il muro e saltò dall'altra parte. Arrivò all'estremità del boschetto e si accingeva ad attraversare di corsa il prato, del tutto allo scoperto, quando gli giunse il suono che il vento gli portava di voci assai lontane. A quel rumore fece un passo indietro e, già uscito dal fogliame, tornò a nascondersi e restò immobile e muto, avvolto nell'oscurità. La luna uscì allora dalla nube che la nascondeva e sulla porta della scalinata Morrel vide comparire il signor di Villefort in compagnia di un uomo vestito di nero. Scesero gli scalini e si inoltrarono nel boschetto. Ben presto la ghiaia cessò di scricchiolare sotto i piedi dei due che stavano sopraggiungendo. Caro dottore, stava dicendo il procuratore del re, ecco che il cielo si rivela avverso alla mia casa. Quale orribile morte! Quale colpo di fulmine! Non cercate di consolarmi. Non ci sono consolazioni per simili disgrazie. La piaga è troppo viva e troppo profonda. Morta. Morta. Un sudore freddo agghiacciò la fronte del giovane e gli fece battere i denti. Chi dunque era morto in quella casa che lo stesso Villefort diceva maledetta? Mio caro signor di Villefort, rispose il medico con un tono che raddoppiò il terrore del giovane, non vi ho condotto qui per consolarvi, anzi tutto il contrario. Che volete dire? Domandò il procuratore spaventato. Voglio dirvi che dietro alla disgrazia che vi ha colpito ce n'è un'altra forse anche peggiore. Parlate, dottore, vi ascolto, disse Villefort. E poi sono preparato a tutto. La signora di Saint-Mérin era in età avanzata, non v'è dubbio, ma godeva ancora di un'eccellente salute. Morrel respirò per la prima volta dopo 10 minuti. Il dolore l'ha uccisa, disse Villefort. Sì, il dolore, dottore. L'abitudine per 40 anni di vivere con il marchese. Non è stato il dolore, mio caro Villefort, disse il dottore. Il dolore può uccidere, quantunque i casi siano molto rari, ma non uccide in un giorno, in un'ora, in 10 minuti. Villefort non rispose nulla. Alzò soltanto la testa che fino ad allora aveva tenuto bassa e guardò il dottore con occhi atterriti. Ascoltate, disse il dottore. Per 3/4 d'ora ho studiato l'agonia, le convulsioni e la morte della signora di Saint-Mérin e sono tanto convinto che sia morta avvelenata che posso dire con quale veleno è stata uccisa. Signore, signore, tutto coincide. Sonnolenza interrotta da crisi nervose, sovraeccitazione cerebrale, torpore dei centri. La signora di Saint-Mérin è morta per una dose violenta di brucina o di stricnina che senza dubbio per caso o forse per errore le è stata somministrata. Villefort afferrò la mano del dottore. «Ah, è impossibile!» disse. «È spaventoso sentire simili cose da un uomo come voi, in nome del cielo! Ve ne supplico, caro dottore! Ditemi che potete esservi ingannato! Senza dubbio lo posso, ma non lo credo!» «Dottore, dottore, abbiate pietà di me! Da qualche giorno mi accadono cose tanto inaudite che credo di diventare pazzo!» «Mio caro signor di Villefort», rispose il dottore, «il mio primo dovere è l'umanità. Avrei salvato la signora di Saint-Mérin se la scienza avesse avuto il potere di farlo, ma lei è morta e io devo dedicarmi ai vivi. Seppelliamo nel più profondo dei nostri cuori quel terribile segreto. Però, signore, cercate sempre, cercate attivamente, perché forse la cosa non si fermerà qui, e quando avrete trovato il colpevole, seppur lo troverete, io vi dirò: siete magistrato, fate ciò che volete. Ah, grazie, grazie, dottore, disse Villefort con indicibile gioia. Non ho mai avuto amico migliore di voi. E quasi temesse che il dottor d'Avrigny si pentisse di questa promessa, si alzò e lo trascinò verso casa. Thank you.